Le strade della comunicazione. Tra i mercati in solida crescita che richiedono nuovi professionisti, c'è indubbiamente quello della gestione dell'arte e della cultura. Dai manager di eventi culturali ai direttori di musei, dai consulenti ai progettisti di itinerari ecoculturali. Questo scenario offre chance a chi ha una formazione specifica. Ecco la professione di cui parliamo oggi. Progettista per la programmazione culturale comunitaria. L'europrogettista è un esperto di programmi europei e delle tecniche di europrogettazione. Il suo obiettivo è quello di reperire finanziamenti europei ed internazionali nell'ambito della progettazione partecipata, che prevede partenariati tra enti diversi. Una figura capace di mobilitare le risorse di un territorio su un progetto condiviso. Percorso accademico. Corso di laurea magistrale in arti, patrimoni e mercati dell'Università Yulm. www.yulm.it